stiamo facendo qua? Quanto questo, eh? Oh, Ticino con l'indiano. Qua è un di chi mi pare. Ti sto incazzando? Ti sto arrabbiando, eh? Ti sto arrabbiando, eh? Allora, non voglio, io che Grazie. Aiuto, per cortesia, mi sono già cazzato, Gabriele, aiuto. Sotto, sotto. Ma che sotto è sotto, aiuto. Alza là sopra. Ma che cosa? Thank you. Guarda che coglione che fa. 知らん。ma non mi pare che tu mi sia incazzato. Basta! Una scelta tecnica coraggiosa e controcorrente che potrebbe diventare un vantaggio, oppure una Quattro foot. La Ferrari lavora ancora sul volante. Come si là? Con 208, dal 208 ha tirato. Wanda. Devi vincere. Sei ne accendo, devo andare a cuccarti, non senti. Non c'è ancora che già non ha compreso nulla, no? No. Adio, vai. Se lo fai ti prendo una tombata. c'era quella, quella. Segnato da lunghi che raccontavano una vita di lavoro duro e di sogni infranti. Ogni mattina siete qua sopra, io e basta adesso, mi sono basta. Basta! Nell'ambiente vasto e freddo. Vada bravo! Sulle auto dei pochi clienti che ancora si fidavano di lui. L'officina non era mai stata la fiorente, ma negli ultimi anni le cose erano andate drammaticamente. Devo vedere, ti devo andare a coricarti, che domani devo andare a lavorare. Le loro officine autorizzate avevano conquistato il mercato e i piccoli artigiani come Marco erano stati spinti sempre più ai margini. Dovevano gettarsi nelle briciole, vecchie Fiat Punto con problemi cronici, altre che nessun altro voleva più toccare, occasionali lavori di carrozzeria per chi non era per prezzi delle officine di Marco. Quello che nessuno sapeva, quello che Marco non aveva mai raccontato a nessuno, era che la sua vita non era sempre stata così. C'era stato un tempo, 20 anni prima, in cui Marco Ferretti era stato uno degli ingegneri più brillanti del settore automobilistico italiano. Aveva lavorato per la Maserati a Modena, nel cuore pulsante dell'eccellenza motoristica italiana, e aveva contribuito a progettare alcuni dei motori più straordinari mai usciti da quella fabbrica leggendaria. Era stato lui a risolvere il problema di surriscaldamento che affliggeva i primi prototipi della quattro porte. Era stato lui a progettare il sistema di iniezione che aveva reso quel motore V8 uno dei più affidabili e potenti della sua categoria. Era stato lui a passare notti intere sui disegni tecnici, a sporcarsi le mani nei reparti di montaggio, a testare personalmente ogni componente fino a raggiungere la perfezione. Ma poi era successo qualcosa che aveva cambiato tutto. Un nuovo direttore era arrivato in azienda, un uomo più interessato alla politica aziendale che all'eccellenza ingegneristica. Marco, con la sua schiettezza completamente bresciana e la sua incapacità di piegarsi ai giochi di potere, era diventato rapidamente un problema quando aveva osato criticare pubblicamente una decisione che considerava sbagliata dal punto di vista tecnico. Il suo destino era stato segnato. Non lo avevano licenziato per lavoro. Sarebbe stato troppo scandaloso considerando i suoi contributi. Lo avevano semplicemente emarginato, assegnandogli compiti sempre più insignificanti, escludendolo dalle riunioni importanti, ignorando le sue proposte. Alla fine Marco aveva capito che non c'era più posto per lui in quell'ambiente e aveva rassegnato le dimissioni, portando con sé solo la sua dignità e le sue conoscenze. Era tornato a Brescia, aveva rilevato l'officina del padre che stava per chiudere e aveva ricominciato da zero. Aveva scelto di qua e di concedere. Mamma mia, mi stai facendo morire stanotte! Parava le auto della gente. Quella mattina di ottobre era iniziata come tutte le altre, con Marco che armeggiava sotto il cofano di una vecchia Fiat Panda del 1998, cercando di capire perché il motore perdeva colpi quando faceva freddo. Il proprietario, pensionato di di comprare un'auto nuova e nemmeno di portare Marco stava per individuare il problema quando un rumore insolito attirò la sua attenzione. Era il rombo inconfondibile di un motore di alta gamma, un suono profondo e potente che sembrava completamente fuori posto in quel quartiere di capannoni fatiscenti. Si raddrizzò asciugandosi le mani con uno straccio che lo fece fermare di colpo. Vuoi capire che mi devi ubbidire a me?